9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia. Buongiorno a tutti naturalmente e buongiorno a Marina Amoroso, se ce l'abbiamo in linea. Buongiorno. Grazie. Buongiorno signora. Allora, suo figlio Davide Scarfeo è stato investito ed è morto 2 anni fa, se non erro, signora. Allora, è stato investito da un uomo che guidava in stato di ebbrezza, è giusto? Di ebbrezza, altissima velocità e stupefacente. Stupefacenti, però in realtà non sono state fatte le analisi, se non erro. Il, cioè, su cui... il testo per vedere se era drogato. Ma perché il PM non ha dato l'autorizzazione? Guidava ad altissima velocità, almeno oltre i 140 quando il limite era 100 all'ora, e suo figlio viaggiava in scooter, no? La città, anche se c'era messo 100 all'ora, parlando con degli esperti, siccome a 3 chilometri della città non doveva andare più di 60. Non doveva andare a più di 60. Il punto qual è? Il punto è che questa persona, naturalmente, come sempre in questi casi, è andata a processo, e che cosa è successo? Questo l'assassino, che si chiama Walter Segretario, che l'hanno accusato di omicidio colposo, nonostante siano presenti gli estremi dell'omicidio volontario, con dolo eventuale, fanno il patteggiamento, una pena patteggiata ad 1 anno e 11 mesi, pena sospesa. Lui è libero di uccidere ancora questo Walter Segretario, per lo Stato italiano può continuare a uccidere. Insomma, questo naturalmente è, ovviamente, lo capisco, è il discorso di una madre che naturalmente chiede giustizia, insomma, al di là di tutto, insomma, non sappiamo se... appunto, se sia libero di uccidere ancora oppure no. La realtà è che, appunto, lei voleva giustizia, avrebbe voluto giustizia e non l'ha avuta. No, infatti io dico questo, se io continuo a lottare, perché la mia associazione che ho fondato, Giustizia per le Strade, proprio contro gli assassini e la guida, si batte contro le sentenze ingiuste, contro la cultura della vita e della sicurezza stradale. Io questo è quello che faccio. Finché almeno gli darò giustizia a mio figlio, salvando altre persone. Farò di tutto insieme ad altre persone. Infatti dico sempre che di stare tutti quanti uniti, perché quello che è successo a me può succedere ad altri, non è che sia, perché molte volte la gente è molto superficiale, non è come se, diciamo, infatti io dico sempre, non rimanete indifferenti a quello che è capitato a me, può succedere ad altri, perché la morte stradale arriva all'improvviso, è inaspettata, e quando ti dicono sfortuna, la sfortuna, mio figlio non è caduto un fulmine o un albero, perché ci sono questi ragazzi, perché uno di 22 anni, chiamiamolo in questa maniera, perché è una bestia, perché uno che aveva scippato i cessi dove era stato, penso che non è una persona normale, giusto? Era uno che era drogatissimo, ecco dov'è che si capisce che era drogato. E poi andava ad altissima velocità, con la certezza che poteva uccidere, perché è un'arma la macchina, quando sei ubriaco, tu hai un'arma in mano e non capisci niente, perché quando si ubriachi poi non si guarda solo in avanti, la destra, che lui si è buttato a destra dove mio figlio era nella sua strada, tranquillo, che andava perfetto, infatti c'è non c'è niente, tutto al 100%, mio figlio aveva tutto il suo casco, questo l'ha proprio ucciso, è inutile che parliamo di incidente, per me non sono incidenti, è il dolo eventuale, doveva essere, siamo tutti gli estremi per essere il dolo eventuale, solo che viene punito meno di un furto in Italia. Io non immaginavo mai che noi familiari siamo trattati come se siamo noi gli assassini, e i colpevoli sono difesi come se fossero vittime. Così è, così in Italia, In Italia non c'è giustizia. Questo lo dice perché, se non sbaglio, nel corso del processo, quando il giudice ha dovuto emettere la sentenza, insomma, confermare il patteggiamento, è successo che siete stati di fatto, ho letto, circondati dai carabinieri perché temevano una vostra reazione scomposta. È nato, pure hanno detto qualcosa. Che forse gliel'ho raccontato io ieri. No, l'abbiamo letto, perché so che ha scritto una lettera a un settimanale online, a un giornale online siciliano. Resti con noi, signora Amoroso. Noi è di questo che vogliamo parlare oggi, partendo anche da un fatto di cronaca più recente. Ed è questo: si è aperto ieri il processo d'appello, la vicenda forse la ricorderete. Parliamo di una vicenda anche questa, iniziata un paio d'anni fa. Un uomo ubriaco al volante ha imboccato contromano l'autostrada A26, ha fatto 30 chilometri, ha centrato due auto e quattro ragazzi francesi hanno perso la vita. Erano quattro turisti francesi intorno ai 20 anni. Che cosa è successo? In primo grado è stato condannato per omicidio volontario, adesso in appello il procuratore generale ha chiesto il passaggio appunto all'omicidio colposo. Sono tanti anni che ogni volta che accadono fatti di questo genere si chiede di introdurre un nuovo reato, di prevedere per fatti di questo genere una sorta di concetto di omicidio al volante, se questo è possibile, e vogliamo parlare con voi oggi di questo all'800 24 00 24, per intervenire in diretta pure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, e ne vogliamo parlare per capire innanzitutto se abbia un senso giuridico una cosa di questo genere, e se possa avere, oltre a dare giustizia alle vittime di questi fatti, avere anche un effetto deterrente oppure no. Saluto innanzitutto Fabio Roia, che è giudice alla sezione soggetti deboli del Tribunale di Milano. Buongiorno Roia. Buongiorno a voi. E, tra l'altro, Roia, lei ha anche una storia personale legata a una vicenda di questo genere, perché suo padre è morto in questo modo, investito sulle strisce pedonali. Sì, esattamente, ho avuto una esperienza personale tragica e niente, è stata metabolizzata così come la vita impone, insomma. E anche in questo caso io non so se la persona che guidava l'auto fosse sotto effetto di qualche sostanza, anche in questo caso appunto sono sei mesi con la condizionale e naturalmente nemmeno un giorno di carcere. Sì, ma io però le devo dire, da un punto di vista soggettivo, proprio come persona, premesso che poi il dolore è un qualcosa di estremamente personale, quindi ciascuno lo metabolizza come meglio crede. Io non avevo ansie di vendetta, fra virgolette, nei confronti di questa persona, quindi il fatto che poi abbia patteggiato 6 mesi, 9 mesi mi è stato abbastanza indifferente, perché comunque questo è un danno, la perdita di una persona cara, ho sentito la signora, figuriamoci di un figlio, un danno che non può trovare riparazione alcuna. Certamente, come diceva lei, c'è un problema di natura giuridica che troviamo ogni giorno nell'applicazione di queste norme, laddove si oscilla fra il concetto di colpa cosciente o di dolo eventuale. Quindi io sono assolutamente favorevole all'introduzione di una nuova fattispecie di reato che tolga al giudice dall'imbarazzo di dover fare un'indagine sull'elemento psicologico dell'autore del reato, quindi capire se quella persona nel momento in cui si mette alla guida accettava il rischio sostanziale di ammazzare una persona, oppure era convinto che, malgrado le sue condizioni di alterazione, guidando il veicolo questo non sarebbe mai accaduto, che poi è la differenza che c'è fra dolo eventuale e colpa cosciente. Siccome le oscillazioni sono molte, l'introduzione di una norma darebbe anche più certezza dal punto di vista del diritto ed eviterebbe queste forme anche condivisibili e comprensibili, così rispetto alle decisioni dei giudici, di scarsa comprensione da parte dei cittadini. C'è un eccesso di discrezionalità dovuto anche alle norme in questo momento da parte dei giudici, e la testimonianza, se vuole Roia, è anche nel caso che si è riaperto ieri appunto in appello, della vicenda appunto della quale parlavamo sulla 26, perché il primo grado omicidio volontario e 21 anni di carcere, in secondo grado è direttamente il procuratore generale che dice no, derubricato rubrichiamolo, è un omicidio colposo. Quindi lei dice no, bisogna assestare le cose in modo che il giudice non abbia dubbi da questo punto di vista. Perché è un'indagine molto difficile, ripeto, un'indagine che va fatta sull'elemento psicologico dell'autore del reato, il che è un qualcosa di veramente complesso poi in situazioni di questo tipo. E quindi il fatto che il legislatore codifichi una norma dove si parli, non so, di omicidio stradale, omicidio derivante dalla violazione di norme sulla circolazione, codificando e quindi individuando un range di pena definitivo, può essere di aiuto al giudice. Oggi noi abbiamo già delle pene molto alte, pur partendo dall'ipotesi di omicidio colposo, nel caso della signora si poteva comminare una pena da 3 a 10 anni di reclusione. Quando poi i morti sono di più, l'incidente causa più persone, si può arrivare fino a 15 anni. Già questo applicando l'ipotesi colposa di reato. Se poi ovviamente andassimo nell'ipotesi dolosa, ma qui ci sono tutte quelle difficoltà interpretative a cui ho fatto riferimento, si potrebbero applicare le pene previste per l'omicidio volontario, che sono pene molto alte. Ci scrive sulla nostra bacheca Facebook Laura Biason, perché poi sono anche le questioni del, se vogliamo, anche del funzionamento, no, della giustizia italiana e non solo del sistema italiano. Dice: avevo 13 anni quando ho visto mia nonna morire investita ad un metro da me mentre attraversavamo sulle strisce pedonali col verde a mezzogiorno. L'investitore era ubriaco e guidava un'ape perché gli era stata ritirata la patente perché aveva già investito e ucciso un'altra persona. Dopo 7 anni il processo, 3 mesi con la condizionale e non aveva scontato nulla nemmeno per il primo incidente. Ci chiede se ci sembra normale. No, non ci sembra normale. Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie. E benvenuto. Cosa dice lei? Ci vorrebbe l'introduzione di un reato di questo tipo, come diceva Roia? Ma io devo dire che le norme, il codice disciplina già queste ipotesi, e per quanto riguarda l'elemento soggettivo a cui faceva riferimento anche il collega amico Roia, che saluto, è una valutazione che secondo me va fatta in punto anche di modalità della condotta e quindi di fatto, bisogna capire come è avvenuto e come, per esempio, in questo caso, io leggendomi la sentenza del Tribunale di Alessandria, ci sono tutti degli elementi che possono portare il giudice a ritenere l'elemento psicologico, il dolo eventuale, o per esempio la Procura Generale ha chiesto di derubricare il reato in omicidio colposo basandosi sulla colpa cosciente, però partendo dagli elementi che risultano dall'istruttoria, quindi la vedo difficile che il legislatore possa in qualche modo tipizzare e risolvere con una norma questa situazione, perché poi occorre valutare. Le norme ci sono, non dimentichiamoci che il legislatore sul 589... Mi scusi Ferri, però io questa cosa non la capisco, cioè non capisco perché non si può fare una norma che dice se guidi ubriaco al volante e metti sotto uno e lo uccidi, la pena è elevata di un tot, insomma, magari... Ci sono già delle norme. Allora abbiamo, come diceva prima anche il collega, il 589, che è stato modificato nel 2008 con il decreto legge poi convertito il numero 92, prevede che nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena non superiore, che non può superare gli anni 15, però ecco, si può arrivare fino ad anni 15. Quindi in caso di omicidio colposo plurimo esiste già una norma che ti porta a 15 anni, il giudice può erogare una pena di 15 anni. Si parla di omicidio colposo plurimo. Il problema è che se poi c'è l'omicidio volontario, perché il giudice, come nel caso del Tribunale di Alessandria, ha ravvisato la sussistenza del dolo eventuale, e quindi tutto quel discorso sull'accettazione del rischio, sulla prevedibilità, e quindi andando a valutare la condotta che il soggetto ha tenuto, e allora in quel caso si può applicare, come è stato fatto, il 575. E quindi le norme mi sembrano che ci siano e lo dimostra questo caso. Occorre certamente più attenzione, fare anche molta più prevenzione per quanto riguarda la sicurezza stradale, che è uno dei punti principali, però non si può dire che il legislatore non sia intervenuto, perché già nel 2008 ha ha ritenuto appunto di aggravare le pene del 589 e nel caso di dolo, che chiaramente come in questo caso la forma è del dolo eventuale, ma si parla sempre di elemento psicologico del dolo, e quindi in questo caso si è applicato il Tribunale di Alessandria, poi vedremo negli altri gradi di giudizio, ha ritenuto di applicare l'elemento soggettivo del dolo, però, quindi applicare sì, il 575, sì, valutando su tutta una serie di elementi, sì, sì, perché la velocità, la direzione, il tragitto anche percorso. Rimango in dubbio su questo tema, sottosegretario, ma adesso ci torniamo, che è quello che ci diceva Fabio Roia, che tra l'altro saluto perché so che deve andare. Buona giornata, Roia, grazie per essere stato con noi. Sottosegretario Ferri, un abbraccio alla signora, di nuovo. Grazie, buona giornata. Rimane il dubbio che poneva Roia, cioè l'eccesso di discrezionalità che resta intorno a questa materia, per cui, come si diceva, appunto, la sentenza di primo grado diceva omicidio volontario, il procuratore chiede in sostanza l'omicidio colposo, e quindi è probabile che si vada naturalmente in questa direzione. Però ne riparliamo tra un attimo. Intanto voglio sentire, prima della pausa, un paio di ascoltatori, forse solo uno, vediamo. Intanto Fabio dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io sono Fabio da Milano e volevo dire che io faccio attività di volontariato e tra le altre cose ho lavorato per 20 anni in ambulanza e il mio turno era il sabato notte, e sappiamo tutti che il sabato notte, purtroppo, come dice la signora, ci sono tante persone che per colpa bevono, si mettono alla guida e poi finiscono con le macchine sugli alberi ammazzando gente che purtroppo non c'entra nulla. Ho visto tante volte mamme, papà arrivare negli ospedali e piangere i figli morti. Allora, una domanda al sottosegretario: noi facciamo tante norme, il problema è che poi il giudice, è questo che diciamo, il giudice ha la discrezionalità di dare un anno a una persona che non ha nessuna colpa, ha solo la negligenza, perché è cosciente, di iniziare a bere una, due, tre, quattro birre, mettersi alla guida e poi correre a 140 all'ora investendo un povero ragazzo che girava col suo motorino e mandarlo al creatore. Allora, la colpa non può essere una colpa, è una negligenza, e la macchina è un proiettile guidato a 140 all'ora. E glielo dico perché guido ambulanze e glielo garantisco che non è facile tenere una macchina a 140 all'ora ubriaco. Già non lo è da sano. E quindi lei cosa dice? Che sarebbe un deterrente l'introduzione di pene più severe? Questa è la sostanza? Assolutamente sì. Negli Stati Uniti, se ti beccano guidare ubriaco, ti danno 10 anni di carcere e non hai ammazzato nessuno. Grazie Fabio. Adesso ci prendiamo una pausa, poi altri ascoltatori e poi ancora il sottosegretario. Ci raggiungerà poi anche un avvocato che insomma si occupa proprio di queste cose. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Assunta da Siena, buongiorno. Buongiorno Simone, io l'ascolto tutte le mattine, ormai da tanti anni ascolto la vostra radio. E anche prima che succedesse questa disgrazia ascoltavo queste cose cercando di immedesimarmi. Poi è toccato a me. E 3 anni fa ho perso mio marito, che era accanto a me mentre attraversavamo le strisce pedonali. In una strada ben illuminata, perché si vede, ma una persona che forse non era, no, senz'altro non era mica un delinquente, non era alcolizzata, non era drogata, ha pensato bene di percorrere la strada senza guardare dove metteva le ruote. E qui mi riallaccio al discorso dell'ascoltatore di prima sulla negligenza, sulla leggerezza. Fatto sta che ci ha preso in pieno e mio marito è rimasto lì. Io mi sono salvata, anche se messa male, ma mi sono salvata, e lui è rimasto lì. E io sono rimasta lì insieme a lui, perché la mia vita ovviamente ha subito un tale tracollo che non è più la stessa cosa, e a 57 anni ormai mi ritrovo come una specie di fantasmino che vive perché ci sono i figli. Io volevo, Simone, agganciarmi al discorso non tanto della pena, che tanto ci credo poco o niente, ma al discorso di un'equiparazione innanzitutto dell'omicidio stradale, perché prendere in considerazione soltanto chi uccide sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che è delinquenziale, senz'altro sì. Ma io mi domando, non è altrettanto delinquenziale guidare con leggerezza, magari al telefonino, magari cercando cose nella borsa o chissà dove, o nel cassetto o nel cruscotto? Io tutti i giorni percorro perché è così che è successo, Assunta, 3 anni fa, l'incidente che vi ha coinvolti. Cioè non era una persona ubriaca, era sobria la persona. No, assolutamente no, e quindi io non voglio parlare di questa persona perché non mi interessa speculare su questo, però ci tengo tanto, Simone, a dire che le persone, noi tutti per la strada, siamo cattivi. Io la percorro a piedi Siena tutti i giorni perché per me è uno sfogo anche mentale camminare con il mio cane. Le persone sono incoscienti anche nelle strade dove c'è scritto 30 all'ora e sono strade strette, pericolose, non gliene importa niente, vanno come siluri, e se ti provi a dirgli qualche cosa, ti mandano a quel paese senza neanche pensarci. Io ho fatto delle litigate con donne e mi arrabbio con le donne perché sono uguali uomini e donne, ma siccome sono una donna, quando vedo le donne che fanno queste leggerezze mi arrabbio anche di più, e non gliene frega niente, glielo giuro Simone, non gliene importa niente del tuo dolore, non gliene frega niente. Tu ormai sei stata marchiata, così si va avanti, non tocca a loro, e finché non tocca a loro la sensibilità è zero. E quindi lei dice che ci vorrebbe un'introduzione, in sostanza, anche in conseguenza di quello che le è successo, di un reato, appunto, di omicidio stradale, non collegato necessariamente allo stato di ebbrezza, insomma. No, Simone, se lei guida per le strade sicuramente lo fa, lei si accorge di quante leggerezze vengono fatte al volante di una macchina. Ha ragione quel signore che ha detto la macchina è un proiettile. È un proiettile la macchina, quella signora ha detto un proiettile, mi sembra era la prima signora che è intervenuta, è vero, la signora ha perso un figlio, ho rispetto per lei, ma mi creda che anche aver perso mio marito non è stato uno scherzo. 59 anni buttati nel sacco della spazzatura ed era una persona eccelsa, voglio dire, perché questo? Per leggerezza, perché si cassa questa cosa come una fatalità, no, non è così. Perché si guida con leggerezza, io lo vedo costantemente, ci vogliono campagne di informazione, perché purtroppo è vero che noi italiani, come disse Gerardo Colombo qualche tempo fa, io andai a sentire un suo intervento sulle pene da combinare e compagnia bella, è vero che gli italiani ancora hanno bisogno della mamma per insegnarli a comportarsi, perché non lo accettano nemmeno di essere consigliati e redarguiti, no? Sanno come si fa perché gli fa comodo fare così, perché non si sensibilizzano su niente. Quindi ci vogliono pene severe, ma ci vuole anche qualcosa che insegni alle persone veramente a comportarsi sulla strada, perché non sanno che baratro c'è per chi rimane. Assunta, le chiedo di rimanere con noi perché voglio farle a questo punto rispondere dal sottosegretario e poi risentirla. Allora, sottosegretario, ha sentito i due interventi e ha sentito anche quella che è la mia perplessità, che mi sembrava essere anche la perplessità di Roia, insomma, questo eccesso di discrezionalità. L'intervento erano quello di poco fa della persona che lavorava, che ha fatto 20 anni di volontariato con le ambulanze, e l'intervento della signora. Prego. No, intanto un abbraccio forte alla signora, perché mi immagino che il dolore deve essere grandissimo, e giustamente la frase che ha detto, 50 anni, 56 anni spazzati via in un attimo, e poi per un comportamento negligente di un'altra persona, è chiaro che accentua ancora di più il dolore e non ti riesce a dare una spiegazione. Quindi, secondo me, proprio il racconto della signora, drammatico e si sente ancora nelle sue parole, deve far riflettere una cosa, che è importante la tutela della vittima, la tutela della persona offesa. In questo caso, come sapete, la persona offesa sono i parenti, sono la moglie, sono i genitori, sono i fratelli che perdono uno degli affetti più cari, e quindi ecco, in questo secondo me occorre sempre avere una visione importante anche dal punto di vista giuridico, nelle perché abbiamo più parti processuali e quindi quando fai le regole processuali devi sempre guardare non solo agli imputati, a tutte le garanzie che ovviamente il diritto di difesa esiste, ma dobbiamo ricordarci che c'è anche una vittima, c'è una famiglia, c'è un dolore e c'è tutta una situazione appunto dolorosa come ha descritto ora la signora. E purtroppo dal punto di vista giuridico la persona offesa può essere tutelata, anche se non serve a niente, perché un dolore così straziante non è che può essere tutelato solo economicamente, e quindi vogliono chiaramente, giustamente, anche la certezza della pena e quindi anche un giudizio celere, veloce, perché poi dobbiamo parlare anche di tempi del processo, perché le persone, io nella mia esperienza di giudice l'ho visto, i familiari, anche se non sono costituiti parte civile, non sono testimoni, vengono sempre a seguire le udienze, desiderosi di avere una verità, desiderosi di ascoltare e attraverso anche le carte processuali rivivono e vi sembra di avere ancora più vicino il familiare che se n'è andato. Però io non voglio tornare in quel caso, però della signora esiste già la norma, il 589 secondo comma, appunto il legislatore, ahimè nel caso di omicidio colposo, siccome quello generico è punito da 6 mesi a 5 anni, invece poi il legislatore ha introdotto proprio l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quindi ha introdotto questa fattispecie proprio specifiche, quindi ha introdotto una colpa specifica, perché non è più generica, ma riguarda appunto le violazioni, quindi l'essersi distratto, l'aver parlato al cellulare, l'essere passato con il rosso. Allora però sottosegretario. E la pena va da 2 a 7 anni di reclusione. Però le chiedo a questo punto, sottosegretario, il mio dubbio è che ci pone anche un ascoltatore che me lo chiede via Twitter, il mio dubbio a questo punto è che la responsabilità sia proprio dei giudici, cioè il problema è questo, cioè ci sono delle norme, no? E su questi punti probabilmente bisogna andarci giù cattivi anche per avere un effetto deterrenza, glielo dico molto francamente e molto brutalmente, avendo sentito la storia della signora Assunta, la storia di Marina Amoroso che abbiamo ospitato all'inizio, bisogna andarci giù cattivi, evidentemente in molti casi i giudici non ci vanno abbastanza cattivi. Il magistrato, allora io perché non dico che ho delle perplessità nell'introdurre una nuova norma, perché secondo me si può lavorare su quelle già esistenti, e ci sono i mezzi, e poi il giudice, io sono per lasciare la discrezionalità al giudice, il quale la deve esercitare come fa, perché io non perché voglio difendere la categoria dei magistrati, però il magistrato valuta le prove e fa un processo, con bilancia appunto e raccoglie l'istruttoria, avviene di fronte al giudice il dibattimento e poi decide, poi la norma, e in un caso può dare 2 anni, in un altro caso può dare 7 anni di reclusione. In un caso, e quello è un altro problema, quando il giudice ritiene di accogliere, siccome se c'è il consenso del pubblico ministero, il patteggiamento, quindi va a valutare caso per caso, valutando anche la condotta, perché può esserci il caso in cui l'imputato negligentemente, parlando al telefonino, passando a commettere questa tragedia e poi si rende conto subito, cerca di soccorrere la vittima, lo porta subito all'ospedale, chiama l'ambulanza e si dispera, persone che anche come quello che invece se ne va avanti, a parte che c'è anche l'omissione di soccorso, o se ne frega e mostra una, anche non solo dopo aver commesso il fatto, anche dopo il post factum, e quindi occorre valutare. Quindi mi scusi sottosegretario, lei sta dicendo la sostanza, e le chiedo di essere molto breve e molto compatto su questo, non servono nuove norme, dice lei? Secondo me allo Stato no, si applicano quelle che ci sono e la magistratura lo sta facendo, il solito problema è quello dei tempi del processo e di bilanciare di bilanciare i diritti che ha l'imputato, ma che deve avere anche la vittima, perché poi occorre un bilanciamento. Anche a Fabio, che ha chiamato prima, che io tra l'altro, anche se non conosco, stimo per far 20 anni di volontariato, oggi è davvero importante, credo nel volontariato, però lui diceva in America puniscono fino a 10 anni, anche in Italia, perché in Italia se te guidi in stato di ebbrezza alcolica e l'omicidio è colposo, si applica una pena che va da 3 a 10 anni. Quindi sì, poi c'è la certezza di questa pena, il patteggiamento e tutto quello che sappiamo. Allora, sottosegretario, si fermi ancora un attimo, se può rimanere un minuto con noi. Voglio chiedere alla signora Assunta se, come dire, se questa risposta in qualche... Sì, ho sentito tutto. Insisto col dire, spendiamo un po' di soldi anche per un po' di campagna di informazione e di insegnamento alle persone. Le pene, non è necessario sempre il carcere o pensare al carcere, ma applichiamo qualcosa anche a livello sociale, mettiamo in contatto queste persone con quelli che restano magari vittime di questi incidenti stradali, facciamogli fare dei lavori utili che servano a chi rimane magari paralizzato, magari con qualche altro problema, facciamogli vedere visivamente quello a cui hanno partecipato e voglio dire, rendiamoli responsabili, facciamo una campagna, mandiamo in onda delle cose che la gente le possa vedere, anche se non ha commesso niente, ma che si renda conto di che cosa può procurare avendo un comportamento leggero e negligente in macchina o in moto. Ecco, è questo secondo me che deve essere importante, cercare di insegnare alla gente prima che commetta il fatto. Grazie Assunta. Allora ringrazio anche il sottosegretario Cosimo Ferri, non l'abbiamo detto all'inizio, ma insomma diciamo ha un certo rapporto anche con i temi della sicurezza stradale, perché ci consente di dirlo, sottosegretario, il figlio di Enrico Ferri, l'uomo dei 110 all'ora, no? Quello per noi la sicurezza, cioè, stradale, geneticamente interessato alla materia. Ma no, per infatti così io sottoscrivo quello che ha detto la signora, perché il problema è proprio l'informazione, che bisogna iniziare nelle scuole, la prevenzione, ed è giustissimo, per esempio, per chi per esempio rimane paralizzato, la vittima, dovrebbe l'imputato davvero rendersi conto di quello che ha fatto, esposte, e iniziare tutta un'attività di recupero aiutando per esempio la persona paralizzata. E quindi in questo il legislatore, lo Stato, il governo potrebbe intervenire molto, sia nella certezza della pena per questi tipi di pene, sì, anche come diceva la signora, rieducativa, nei lavori di pubblica utilità, che sono molto importanti, e poi nella prevenzione e nell'informazione, perché noi dobbiamo cercare di far capire che cosa creano queste cose, sì, quindi il parlare al cellulare mentre si guida o guardare la borsa dobbiamo far capire che cosa generano. Sottosegretario, allora la fermo perché abbiamo una pausa per la viabilità, e poi tra l'altro ho al telefono da più o meno un quarto d'ora il povero avvocato Gianmarco Cesari, che è l'avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Buongiorno avvocato, mi scusi se l'ho fatta attendere, insomma, però era giusto anche che sentisse, quindi saluto il sottosegretario Ferri, saluto la signora Assunta, ci pigliamo una pausa per la viabilità e poi chiudiamo con lei, Cesari. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, allora, con Gianmarco Cesari, avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, quindi una persona che se ne occupa molto di queste cose, immagino quasi esclusivamente avvocato. Innanzitutto ci scusi, l'abbiamo fatta attendere un po'. Allora, secondo lei queste nuove pene ci vogliono oppure no? Perché col sottosegretario alla fine siamo rimasti in sospeso, nel senso che da una parte ci ha detto sì, insomma, le norme ci sono a tutti gli effetti, e però dobbiamo lasciare la discrezionalità ai giudici, che è giusto lasciare, per carità di Dio, insomma è anche normale. Detto ciò, però, insomma, ci troviamo di fronte a dei paradossi dal punto di vista delle pene pazzeschi, o delle non pene, per meglio dire. Lei che dice? Io sono assolutamente del parere che occorrano delle nuove norme. Perché? Perché è vero che il reato di omicidio stradale è caratterizzato dall'articolo 589, ma la forchetta da 2 a 7 anni è una forchetta che consente, con gli sconti di pena, del patteggiamento e delle attenuanti, una riduzione fino a 2/3, di modo che se i procuratori della Repubblica si attestano quasi sempre, come fanno quasi sempre, sul minimo della pena acconsentendo addirittura richieste di patteggiamento derisorie del bene giuridico della vita che è protetto dalla norma del 589, questi imputati vengono in tribunale, compaiono in aula e in pratica ritornano sempre a casa, non vanno mai a finire in carcere e quindi c'è una mancanza di deterrenza totale della norma per questa applicazione sempre tendente ai minimi della pena e per questi sconti possibili di pena. Il massimo della pena non è tanto quello da aumentare, quanto il minimo, perché il minimo di 2 anni consente ad oggi di arrivare a punire l'omicidio stradale derivante da fatti avvenuti a causa della circolazione stradale con pene al dire vicine a 1 anno che vengono automaticamente sospese con la concessione di benefici della condizionale. Avvocato, allora so che è un po' come chiedere a un romanista cosa ne pensa di un laziale, però insomma qua c'è un problema anche di giudici, l'abbiamo chiesto alla sottosegretaria. Assolutamente sì, c'è un problema di applicazione della pena che in pratica viene fatta nelle aule di giustizia e che quando il giudice vuole attenersi a quella che è la regola dell'articolo 133, cioè valutare le conseguenze del reato, la condotta immediatamente successiva alla commissione del delitto, lo valuta e applica pene che sono al di sopra dei 2 anni, addirittura dei 3 anni, ma quando deve attenersi a degli sconti di pena, più è alta la pena e più deve scontarla, quindi il reato di omicidio previsto dall'articolo 589 colposo derivante dalla circolazione stradale è punito con una pena inferiore a reati contro il patrimonio ed è questa la sproporzione. Di più, c'è l'articolo 222 che comporta la sospensione della patente fino a 4 anni, ma fino. Noi abbiamo assistito al Tribunale di Roma pochi giorni fa a una sospensione di 10 giorni della patente, rispettando la norma. Quindi anche la norma dell'articolo 222 deve essere assolutamente rivista e sono d'accordo con la signora che diceva poco fa, la riforma non deve riguardare soltanto i reati in stato di alterazione psicofisica da droga, alcol o farmaci, ma soprattutto deve mirare a colpire quella criminalità che guida, quella criminalità stradale azzardata e temeraria, cioè quell'incidente stradale commesso con azzardo e temerarietà, perché è insieme alla distrazione il fattore che causa il maggior numero di decessi sulla strada. Chiarissimo, avvocato, in 30 secondi Stivi dalla provincia di Treviso che attende da un po', buongiorno, 30 secondi veramente. Buongiorno. Prego. Allora, cioè, d'accordissimo con quello che ha detto l'avvocato, ma se anche ci sono le pene, ma possiamo mettere anche la pena per impiccagione a sto punto? Cioè, però se non c'è sono i controlli per strada e se non fermiamo chi fa le infrazioni, come possiamo applicare le pene? Per me mancano i controlli. Sulle strade non ci sono più i controlli. 30 anni fa, quando io ho cominciato a andare in giro col camion, cioè minimo una volta al giorno ti fermavano, adesso ti ferma più nessuno. Ci sono le macchinette oppure i vigili che devono fare cassa. Altro enorme capitolo questo dei controlli e magari prima o poi ci torneremo e con Stivi della provincia di Treviso chiudiamo la trasmissione, grazie anche all'avvocato Gianmarco Cesari, Alessandro Dalla Spezia e tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire, vi chiedo scusa ma insomma prima o poi ci torneremo anche su questi argomenti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, le ragazze del centralino, non so chi ci sia oggi, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 12 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.